Self-defense is anything we do to make our lives safer on a daily basis. Self-defense is fighting with our fists, yelling, telling him to stop looking at us, running away, listening to our gut instinct, getting support, knowing that we are worth defending, talking about what happened. Playing rock! And playing rock. The goal of self-defense is to provide all women, children, queers, people of color, and targeted communities with options and skills that are effective and practical, no matter what our experience, age, level of fitness, or shape of body may be. This record will address three parts of self-defense: the mental, verbal, and physical. Mental self-defense is being tough on the inside and being prepared to take action. It affects how we feel about ourselves and how we come across to others. When we feel confident, we are more able to use our verbal self-defense, which is being assertive and using our voice as a weapon. Knowing how to fight backs up our verbal and mental self-defense. Self-defense is feeling your power. Eh sì, self-defense è sentire la tua potenza. What's up? This is the 151 coming at y'all real. For the 9-4, this is about real defense. The best defense is yourself. So peep these lyrics. So many stories and problems with relationships these days. Battered women pray and fellas rest in their graves over misunderstandings and lack of trust. Whatever happened to the number one self-motivation? Yes, you. I'm talking about you being true, not just to the man above, but being true through all you go through. Sisters think they need somebody to keep them straight, someone to freestyle on their mentality. They get caught up and act helpless, unsure, without realizing all what ladies really can't endure. We were made to be strong, and I know you feel the hurts, but sometimes you gotta kick your feelings to the dirt and get real with yourself. All you need is yourself. With a hand from the man, you don't need nothing else. I used to walk the ghetto blocks with my head down, depressed and all alone until I found my sounds. There's no stopping with this topic, even though y'all is tense. Just remember, your inner being is your real self-defense. There's no stopping with this topic, even though y'all feel tense. Your real self-defense. Verse 2, here's a story about a girl that came to me. She was under a lot of stress, barely pushing 17. See, her fella was a little jealous around the way, and he had gripped her up a couple times, night and day. There was nowhere she could turn, her heart was nearly broken. Her heart had fell apart, and her prayers were unspoken. She said, 151, what should I do? Should I just leave him or sip up on my brew? Then this is what I told ya, he's a buffalo soldier, trying to be the dog and playing the cold shoulder. If you knew the martial arts, he'd be the predator, and you'd be flipping and ripping and sticking the fucking backs of your competitors. Real defense is yourself. Real defense, you don't need no one else. Is yourself. Real defense, you don't need nothing else. Say I am worth a lot no matter what people do. I believe in me and I know someone should too. Anything or anyone that tries to hurt or put me down can kiss my ass, cause I'm almost touching ground. See, if you're going through some troubles and your partner's pissed, just remember, your inner being is your real self-defense. Yeah, like that's basically what I'm trying to get through to y'all. Us ladies and fellas need to wake up and realize that we're just hurting each other. But real self-defense. There's no stopping with this topic, even though y'all is tense. Just remember, your inner being is your real self-defense. There's no stopping with this topic, even E quindi abbiamo ascoltato Real Defense del gruppo 151, che comunque introduce questa chiamata che facciamo a una compagna della rete autodifesa femminista. Ciao, ci senti? Ciao, sì, ciao a tutte, vi sento. Ciao. Ciao. E benvenuta al martedì autogestito da femministe e lesbiche. Innanzitutto, insomma, cominciamo da raccontare cosa succederà questa domenica in quel di l'una e le altre a Spinaceto. Sì, allora, domenica ci incontreremo tutte, il più possibile, tutte quelle che vorranno partecipare, alle 17, anzi dalle 17 in poi, perché ci saranno varie cose. E appunto domenica 9 a Spinaceto, a l'una e le altre, è uno spazio che sta sostanzialmente sopra ad Aura e Marco, se non ci siete mai state, giusto per collocarlo, e faremo appunto questa iniziativa sull'autodifesa, che sarà in gran parte un confronto fra tutte quelle che praticano vari tipi di autodifesa e anche chi non lo pratica ed è incuriosita e vuole saperne di più, insomma. Quindi uno dei punti fondamentali sarà che cosa intendiamo noi per autodifesa, sostanzialmente quale tipo di autodifesa pratichiamo ogni giorno, perché ovviamente tutte ci troviamo in situazioni in cui dobbiamo contrastare aggressioni di vario tipo, da quella verbale a quelle più pesanti, anche fisiche, e quindi tante di noi adottano piccole strategie anche senza aver mai fatto parte di un gruppo di autodifesa o seguito corsi, cioè, alcune cose vengono anche spontanee, però appunto sarà in gran parte una discussione su quello che noi intendiamo per autodifesa. Infatti sì, perché non si tratta solo di autodifesa personale, sappiamo che comunque come lo dite anche nel vostro volantino, questa violenza contro le donne è diventata un cavallo di battaglia della propaganda dello Stato. Certo. Per giustificare militarizzazione, noi comunque qui al martedì, ma come tante femministe a Roma e nel mondo, denunciamo questa strumentalizzazione della violenza che noi subiamo per agire alcune leggi, ma non solo politiche, anche e anche questa pubblicità fa che l'autodifesa diventa una pratica proposta dal comune, che anche dai poliziotti, e ci ritroviamo talvolta nelle situazioni comunque assurde di vedere donne che vanno dai loro potenziali stupratori prendere corsi di autodifesa. Dunque penso che ci sarà anche una riflessione intorno a questo, come auto-organizziamoci intorno a questa tematica. Certo. Sì, infatti appunto, perché come giustamente dicevi tu, in molti casi sappiamo, pensiamo solo allo scorso anno, due anni fa, quando era successa quello stupro all'interno della caserma, no? Al Quadraro, o tante altre situazioni simili, basti pensare all'Aquila, no? In cui appunto sono le guardie i primi che fautori di violenza, e quindi appunto uno dei punti fondamentali è quello dell'auto-organizzazione. Poi per quanto riguarda il discorso della legge, abbiamo visto anche l'anno scorso, no? nel 2013, era l'estate scorsa, no? Che all'interno hanno inserito il decreto sul femminicidio all'interno di quel pacchetto sicurezza che proprio non si poteva, no? che c'era anche tutte le cose contro in OTAS, e per cui diciamo che il discorso chiaramente della violenza contro le donne viene in moltissimi casi strumentalizzato, e appunto riprendiamocelo, insomma, e quindi appunto auto-organizziamoci e confrontiamoci anche su esperienze diverse. Sì, appunto l'idea intorno a cui si muove questa iniziativa, insomma, ci sembra di cogliere appunto quella di ripartire proprio dal concetto di autodifesa nella propria vita, poi il concetto collettivo, per metterne a confronto gli uni con gli altri, le une con le altre. Immagino che sia stata questa, insomma, la molla che ha fatto muovere questa iniziativa. Sì, infatti, appunto, è anche il fatto di proprio rimpadronircene e non lasciare che appunto vengano fatti corsi, no? In situazioni che per noi sono strane, nel senso che vogliamo essere noi a insieme alle altre, soprattutto questo che è un punto fondamentale, perché è la condivisione che ci fa crescere e ci fa diventare più forti. Non è il fatto che io imparo due cose da un istruttore, un'istruttrice, che mi permette di poi difendermi nella situazione, no, di pericolo. E quindi anche il fatto di intendere l'autodifesa appunto non come una cosetta che imparo in un momento specifico, ma di una cosa che interiorizzo e poi diventa uno strumento complessivo di crescita per me, quindi una forma di presa di coscienza anche di sé, no? Sì, e poi in questo caso diciamo che il valore aggiunto di questa iniziativa è anche che, insomma, riapre le porte ad uno spazio che da qualche mese non abbiamo frequentato e che è l'una e le altre, che ovviamente tutte le compagne di Roma conoscono, ma magari qualcuna ci ascolta che invece non lo conosce. Se vuoi un po' sì, ricordarci, insomma. Sì, tra l'altro l'una e le altre, appunto come accennavo prima, si trova a Spinaceto, per chi non lo conoscesse. È uno degli spazi separati che stanno a Roma, è un po' periferico. Comunque, a proposito, per arrivarci si arriva a De Orfermi, poi si prende 706 e l'indirizzo è Largo Niccolò Cannella 17, giusto per appunto chi venisse con i mezzi. E comunque, no, appunto dicevo che l'una e le altre è uno spazio che è occupato da metà degli anni 80 ed è nato con la grande occupazione abitativa degli anni 80. Poi si è formato un'associazione di donne, appunto l'una e le altre, che nel corso degli anni ha fatto un sacco di iniziative, da un centro donna con uno sportello legale appunto per le donne vittime di violenza, corsi di italiano, workshop di teatro, cose di fotografia, insomma varie cose. E un paio di anni fa una delle ultime cose che abbiamo fatto è stato un incontro con Pinar Selek, e quindi diciamo negli anni ha comunque avuto una continuità su un discorso, diciamo, di lotta appunto femminista e con particolare attenzione ad alcune questioni. Quando è venuta Pinar, appunto, abbiamo parlato molto anche delle questioni che poi adesso tornano, no, ancora più forti con la situazione del Kurdistan. E niente, tra l'altro è uno spazio occupato che, come tanti altri spazi, ha avuto problemi da un punto di vista così col municipio, che mi pare nel 2003-2004 ha chiesto un debito pregresso di affitto, che per fortuna poi l'abbiamo scampata, e l'anno scorso lo stesso ci sono stati un po' di problemi così con un'associazione, diciamo, contro il degrado urbano, una di quelle cose che appunto adesso si continuano a sentire. Sì, purtroppo. E anche questo, come dire, è un discorso che continua a essere molto attuale. Oggi si fanno molte politiche razziste sostanzialmente in nome del degrado, e si portano, per esempio, a Casa Albertone si strumentalizzano i ragazzini e le ragazzine. Parlo per esempio della scuola di Casa Albertone, dove Deloschi, figuri di Casa Pound e della Lega, hanno voluto mettere in discussione un centro territoriale permanente dove si impara, dove gli stranieri e straniere possono fare corsi di italiano, mettendo davanti, no, i bambini e le bambine che frequentano quella scuola. E lo stesso modo con cui, insomma, si strumentalizzano le donne, si cerca di strumentalizzare la tematica della violenza contro le donne, e poi però sempre a nome del degrado si vuole levare una sede femminista e lesbica, tanto per sottolineare, insomma, cosa c'è, cioè, che queste politiche antidegrado di fatto sono solo campagne contro qualcuno. sì, infatti, niente, quindi anche appunto siamo felici, vabbè, a parte che non l'ho detto, però il motivo per cui si fa lì all'una e alle altre è che appunto da una ventina d'anni appunto alune le altre ci sono gruppi di compagne che appunto praticano l'autodifesa femminista e quindi appunto è luogo è proprio il luogo per questa iniziativa, insomma. E non ho neanche detto prima invece che ci saranno delle sì, ce la devi proprio descrivere l'iniziativa, sì, allora, ci mancano le tappe. Allora, le tappe saranno che ci sarà appunto questa discussione, poi ci saranno delle diapositive. E la discussione, vabbè, non ve la dettaglio troppo perché altrimenti non c'è più l'effetto sorpresa. E poi ci sarà invece, dopo ci sarà la presentazione di un video, che è un video che si chiama Rock Rage and Self Defense, che è un video che è stato fatto da delle compagne di Seattle, che parla appunto di dell'auto-organizzazione in gruppi di autodifesa, e poi dopo ci sarà una cena alla fine. Tutto questo, ricordiamolo, è alle 17 e poi ridirei a proprio come si arriva l'una e l'altra. Sì. Non è sembra molto lontano, soprattutto per chi se viene dal centro, ma comunque si fa sì, benissimo, sì, si fa, poi si organizza per tornare. Dunque metro B fino a Eur fermi. Sì, Eur fermi, poi si prende l'autobus 706 e l'indirizzo è Largo Niccolò Cannella 17. E chiaramente in macchina ci si mette una mezz'oretta, una cosa super tranquilla per Roma, quindi si può assolutamente fare, e poi appunto magari ci si organizza per tornare. Sì. Lì si vede bene, c'è scritto un grande l'una e le altre. Sì, e poi così. Ci sono anche altre scritte. Sì, e poi insomma non è che le femministe, le lesbiche, le compagne vivono tutte in centro, insomma magari per qualcuno è anche sotto casa questa iniziativa, certo. No? Sì, sotto casa o completamente dall'altra parte della periferia, dall'altra periferia di Roma. In quel caso comunque sì, comunque è un bel allenamento arrivare. Anche spostarsi. Viviamo in una metropoli, godiamocela tutta. Infatti. Vabbè, se non c'hai niente da aggiungere, ci vediamo domenica. Sì, allora ci vediamo domenica e niente, saremo molto contente di vedervi. Un'ultima domanda, è aperto a tutte questo incontro? Posso invitare la mia vicina di casa, certo, la mia collega? Sì, è proprio a tutte, chiaramente, perché lo spazio è separato. Perché lo spazio è separato e perché tutte le donne ne abbiamo bisogno. Certo, e io vi ringrazio e volevo salutarvi e mandare la mia solidarietà alle compagne curde. Grazie a te. Noi ci associamo ovviamente. E ci sarà anche modo, insomma, questo lo dico perché questa radio presto trasmetterà anche uno spot, ci sarà anche modo di contribuire con una solidarietà che è stata quella di sabato scorso in piazza e che sarà anche quella, insomma, di mandare dei soldi, perché le compagne a Kobane hanno bisogno di organizzarsi, hanno bisogno anche di un nostro supporto economico, e presto, insomma, ci sarà uno spot che dettaglierà i modi con cui compagne e compagni che stanno andando a portare la propria solidarietà là, insomma, si organizzano anche per portare dei contributi, che perché insomma ovviamente è una zona in guerra e quindi diventa difficile supportare le spese quotidiane, quindi insomma dai, aspettiamo. Allora, visto che siamo sulle solidarietà, voglio dare la solidarietà a tutte le compagne, e a una in particolare, a chi penso fortemente in questo momento come vittime di violenza. Lo siamo molte e tutte a diversi livelli, quando il livello ha una gradualità un po' più alta ci tocca particolarmente, ci dà la rabbia, ed è questa rabbia la trasformiamo in lotta. Grazie per averci dato il motivo per dire tutto ciò. A domenica. Ciao. Grazie a voi. Ciao.